Il terzo anello, ad alta voce. Il deserto dei Tartari, di Dino Buzzati. Così il sergente maggiore Tronk continuava il suo racconto. Ma poi hanno avuto paura. È imprudente, dicevano, lasciare in giro fuori del confine tanti soldati che sanno la parola d'ordine. Non si sa mai, dicevano, più facile che tradisca un soldato su 50 che un ufficiale solo. Ah, già, assentì Drogo. Allora hanno pensato, meglio che la parola d'ordine la sappia solo il comandante. Così adesso escono dalla fortezza 3/4 d'ora prima del cambio della guardia. Mettiamo oggi. Il cambio generale si è fatto alle 6. La guardia per la ridotta nuova è partita da qui alle 5:15 ed è arrivata là alle 6 giuste. Per uscire dalla fortezza di parole d'ordine non ha bisogno, perché è un reparto inquadrato. Per entrare nella ridotta occorreva la parola d'ordine di ieri e questa la sapeva soltanto l'ufficiale. Oh. Fatto il cambio alla ridotta, comincia la parola d'ordine di oggi. Anche questa la sa soltanto l'ufficiale. E così dura 24 ore, finché non viene la nuova guardia a dare il cambio. Domani sera, poi, quando i soldati fanno ritorno, potranno arrivare alle 6:30. A tornare indietro la strada è meno faticosa. Alla fortezza la parola d'ordine è ancora cambiata. E così c'è bisogno di una terza parola. L'ufficiale ne deve sapere 3. Quella che serve per l'andata, quella che si consuma nel servizio e la terza per il ritorno. Ah, tutte queste complicazioni perché i soldati, mentre sono in strada, non sappiano. E io dico, continuava, senza preoccuparsi se Drogo gli badasse, io dico, se la parola d'ordine la sa soltanto l'ufficiale, e lui, mettiamo, si sente male per strada, cosa fanno i soldati? Mica lo potranno obbligare a parlare. E non possono neanche tornare da dove sono partiti, perché intanto anche là la parola è cambiata. Ma a questo non ci pensano. E poi, loro che vogliono la segretezza, non si accorgono che in questo modo occorrono 3 parole invece di 2 e che la terza, quella per rientrare il giorno dopo alla fortezza, viene messa in giro più di 24 ore prima. Qualsiasi cosa succeda, sono obbligati a mantenerla, se no la guardia non può più rientrare. Ma, obiettò Drogo, alla porta li riconosceranno bene, no? Vedrebbero bene che è la guardia smontante. Tronk guardò il tenente con un certo tono di superiorità. «Questo è impossibile, signor tenente. C'è la regola alla fortezza. Dalla parte del nord, senza la parola d'ordine, nessuno può entrare, non importa chi sia». «Ma allora», disse Drogo, irritato per quell'assurdo rigore, «allora non sarebbe più semplice fare una parola d'ordine speciale per la ridotta nuova? Fanno il cambio prima». E la parola per rientrare viene insegnata soltanto all'ufficiale. Così i soldati non sanno niente. «Si capisce», fece il sottufficiale quasi trionfante, come se avesse aspettato quell'obiezione al varco. «Sarebbe forse la soluzione migliore». «Ma bisognerebbe cambiare il regolamento. Occorrerebbe una legge. Il regolamento dice», intonò la voce a cadenza didascalica, «la parola d'ordine dura 24 ore da un cambio della guardia al successivo. Una sola parola d'ordine vige nella fortezza e sue dipendenze. Vige proprio sue dipendenze. Parla chiaro, non c'è da fare nessun trucco». «Ma una volta», fece Drogo, che da principio non era stato attento, «il cambio alla ridotta nuova si faceva prima?» «Sicuro!» esclamò Tronk. E poi si corresse. «Signor sì! Solo da 2 anni qua c'è questa storia. Prima era molto meglio». Il sottufficiale tacque. Drogo lo guardava spaventato. Dopo 22 anni di fortezza, che cosa era rimasta di quel soldato? Si ricordava ancora, Tronk, che esistevano in qualche parte del mondo milioni di uomini simili a lui che non vestivano l'uniforme e giravano liberi per la città e la notte potevano a loro piacimento mettersi a letto o andare all'osteria o a teatro? No, e a guardarlo lo si capiva bene. Degli altri uomini Tronk si era dimenticato. Per lui non esisteva più che la fortezza con i suoi odiosi regolamenti. Tronk non ricordava più come suonassero le dolci voci delle ragazze, né come fossero fatti i giardini, né i fiumi, né altri alberi, se non i magri, rari cespugli sparsi nei dintorni della fortezza. Tronk guardava, sì, verso il settentrione, ma non con l'animo di Drogo. Lui fissava il sentiero per la ridotta nuova, il fosso e la controscarpa, perlustrava le possibili vie d'accesso, ma non le selvagge rupi, né quel triangolo di pianura misteriosa, e nemmeno le nubi bianche che navigavano per il cielo già quasi notturno. Così, mentre veniva il buio, si impadroniva nuovamente di Drogo il desiderio di fuggire. Perché non se ne era andato subito, si rimproverava? Perché aveva ceduto alle melliflue diplomazie del Matti? Ora doveva aspettare che si consumassero 4 mesi, 120 lunghissimi giorni, metà dei quali di guardia alle mura. Ah, gli parve di trovarsi fra uomini di altra razza, di una terra straniera, mondo duro e ingrato. Si guardò attorno, riconobbe Tronk che, immobile, osservava le sentinelle. Già era scesa la piena notte. Drogo era seduto nella nuda camera della ridotta e si era fatto portare carta, inchiostro e penna per scrivere. «Cara mamma», cominciò a scrivere, e immediatamente si sentì come quando era bambino, solo, al lume di una lanterna, mentre nessuno lo vedeva, nel cuore della fortezza, a lui ignota, lontano dalla casa, da tutte le cose familiari e buone. Gli pareva una consolazione poter almeno aprire completamente il suo cuore. Certo, con gli altri, con i colleghi ufficiali, doveva farsi vedere uomo, doveva ridere con loro, raccontare storie spavalde di militari, di donne. A chi altri se non alla mamma poteva dire la verità? E la verità di Drogo quella sera non era una verità da bravo soldato, non era probabilmente degna dell'austera fortezza I compagni ne avrebbero riso. La verità era la stanchezza del viaggio, l'oppressione delle tetre mura, il sentirsi completamente solo. Sono arrivato sfinito dopo 2 giorni di strada. Questo le avrebbe scritto. E arrivato ho saputo che se volevo potevo tornare in città. La fortezza è malinconica. Non ci sono paesi vicini, non c'è nessun divertimento e nessuna allegria. Questo le avrebbe scritto. Ma Drogo si ricordò della mamma. A quell'ora ella pensava proprio a lui e si consolava all'idea che il figlio se la passasse piacevolmente con simpatici amici, magari, chissà, in gentile compagnia. Lei certo lo credeva soddisfatto e sereno. «Cara mamma», la sua mano scrisse, «sono arrivato l'altro ieri dopo un ottimo viaggio. La fortezza è grandiosa. Oh, farle capire lo squallore di quelle mura, quell'aria vaga di punizione ed esilio, quegli uomini stranieri e assurdi. Invece, scriveva, gli ufficiali qui mi hanno accolto affettuosamente. Anche l'aiutante maggiore in prima è stato molto gentile e mi ha lasciato completamente libero di tornare in città se volevo. Eppure io... Forse in quel momento la mamma girava nella sua stanza abbandonata. Apriva un cassetto, metteva in ordine certi suoi vecchi vestiti, i libri, lo scrittoio. Li aveva già riordinati tante volte, ma le pareva così di ritrovare un po' la viva presenza di lui, come se egli dovesse rincasare al solito prima di pranzo. Gli pareva di udirlo, il noto rumore dei suoi piccoli passi irrequieti che si sarebbero detti sempre in ansia per qualcuno. Come avrebbe avuto cuore di amareggiarla? Se le fosse stato vicino, nella stessa stanza, raccolti sotto il familiare lume, allora sì, Giovanni le avrebbe detto tutto, e lei non avrebbe fatto in tempo a contrariarsi, perché lui le era accanto, e il brutto era ormai passato. Ma così, da lontano, per lettera. Oh. Seduto accanto a lei, dinanzi al camino, nella rassicurante tranquillità dell'antica casa, allora sì, le avrebbe parlato del maggiore Matti e delle sue insidiose blandizie, delle manie di Tronk. Le avrebbe detto come stupidamente avesse accettato di rimanere 4 mesi e probabilmente entrambi ci avrebbero riso sopra. Ma come fare così da lontano? Eppure io, Drogo scriveva, ho creduto bene per me e per la carriera restare qualche tempo quassù. La compagnia poi è molto simpatica, il servizio facile e non faticoso. E la sua stanza, il rumore della cisterna, l'incontro con il capitano Ortiz e la desolata terra del nord. Non aveva da spiegarle i ferrei regolamenti della guardia, la nuda ridotta in cui si trovava. No, neppure con la mamma poteva essere sincero, nemmeno a lei confessare gli oscuri timori che non gli lasciavano pace. Nella sua casa, in città, gli orologi, uno dopo l'altro, con voci diverse, adesso suonavano le 10. Ai rintocchi tintinnavano lievemente i bicchieri nelle credenze. Dalla cucina giungeva un eco di risata, dall'altra parte della via un canto di pianoforte. Attraverso una strettissima finestra, quasi una feritoia, dal posto dove sedeva, Drogo poteva gettare uno sguardo verso la valle del nord, quella terra triste. Ma adesso non si vedeva che buio. La penna scricchiolava un poco. Benché trionfasse la notte, il vento cominciava a soffiare fra le merlature portando ignoti messaggi, benché dentro la ridotta si ammucchiassero dense le tenebre e l'aria fosse umida e ingrata, in complesso io sono molto contento e sto bene, scriveva Giovanni Drogo. Thank you. dalle 9 di sera all'alba, ogni mezz'ora una campana suonava nella quarta ridotta all'estremità destra del valico, dove finivano le mura. Suonava una piccola campana e subito l'ultima sentinella chiamava il compagno più vicino. Da questa al soldato seguente e poi avanti fino all'estremità opposta delle mura, di ridotta in ridotta, attraverso il forte e ancora lungo la bastionata, il richiamo correva nella notte. «Allerta! Allerta!» Le sentinelle non mettevano alcun entusiasmo nel grido, lo ripetevano meccanicamente, con strani timbri di voce. Disteso sul lettuccio, senza essersi spogliato, Giovanni Drogo, invaso da un crescente torpore, sentiva a intervalli sopraggiungere da lontano quel grido. «Ae! Ae! Ae!» Questo gli arrivava soltanto. Si faceva sempre più forte, gli passava sopra con la massima intensità, si allontanava dall'altra parte, calando a poco nel nulla. Dopo 2 minuti eccolo di ritorno, rimandato come controprova dal primo fortino di sinistra. Drogo lo udiva ancora avvicinarsi, a passi lenti e uguali. «Ae! Ae! Ae!» Solo quando gli era sopra, ripetuto dalle proprie sentinelle, riusciva a distinguere la parola, ma presto l'allerta si confondeva ancora in una specie di lamento che moriva finalmente all'ultima sentinella contro il piedistallo delle rupi. Giovanni udì arrivare il richiamo 4 volte e 4 volte ridiscendere il ciglione del forte fino al punto donde era partito. Alla quinta giunse nella coscienza di Drogo solo una vaga risonanza che gli provocò un breve sussulto. Gli venne in mente che non era bello per l'ufficiale di guardia dormire. Il regolamento lo permetteva a condizione che non ci si spogliasse, ma quasi tutti gli ufficiali giovani della fortezza, per una forma di elegante alterigia, restavano svegli tutta la notte, leggendo, fumando sigari, facendosi anche abusivamente visita l'un l'altro e giocando a carte. Tronc, a cui prima Giovanni aveva chiesto informazioni, gli aveva fatto capire che era buona norma stare sveglio. Disteso sul lettuccio, fuori dell'alone del lume a petrolio, mentre fantasticava sulla propria vita, Giovanni Drogo fu preso improvvisamente dal sonno. E intanto, proprio quella notte, oh, se l'avesse saputo, forse non avrebbe avuto voglia di dormire, proprio quella notte cominciava per lui l'irreparabile fuga del tempo. Fino allora egli era avanzato per la spensierata età della prima giovinezza, una strada che da bambini sembra infinita, dove gli anni scorrono lenti e con passo lieve, così che nessuno nota la loro partenza. Si cammina placidamente, guardandosi con curiosità intorno. Non c'è proprio bisogno di affrettarsi, nessuno preme di dietro e nessuno ci aspetta, Anche i compagni procedono senza pensieri, fermandosi spesso a scherzare. Dalle case e sulle porte, la gente grande saluta benigna e fa cenno indicando l'orizzonte con sorrisi di intesa. Così il cuore comincia a battere per eroici e teneri desideri, si assapora la vigilia delle cose meravigliose che si attendono più avanti. Ancora non si vedono, no, ma è certo, assolutamente certo, che un giorno ci arriveremo. Ancora molto? No, basta attraversare quel fiume laggiù in fondo, oltrepassare quelle verdi colline. Oh, non si è per caso già arrivati? Non sono forse questi alberi, questi prati, questa bianca casa, quello che cercavamo? Per qualche istante si ha l'impressione di sì, e ci si vorrebbe fermare. Poi si sente dire che il meglio è più avanti e si riprende senza affanno la strada. Così si continua il cammino, in un'attesa fiduciosa, e le giornate sono lunghe e tranquille, il sole risplende alto nel cielo e sembra non abbia mai voglia di calare al tramonto. Ma a un certo punto, quasi istintivamente, ci si volta indietro e si vede che un cancello è stato sprangato alle spalle nostre, chiudendo la via del ritorno. Allora si sente che qualche cosa è cambiato. Il sole non sembra più immobile, ma si sposta rapidamente. Ahimè, non si fa tempo a fissarlo che già precipita verso il confine dell'orizzonte. Ci si accorge che le nubi non ristagnano più nei golfi azzurri del cielo, ma fuggono, accavallandosi l'un l'altra, tanto è il loro affanno. Si capisce che il tempo passa e che la strada un giorno dovrà pur finire. Chiudono a un certo punto alle nostre spalle un pesante cancello, lo rinserrano con velocità fulminea e non si fa tempo a tornare. Ma Giovanni Drogo in quel momento dormiva ignaro e sorrideva nel sonno, come fanno i bambini. Passeranno dei giorni prima che Drogo capisca ciò che è successo. Sarà allora come un risveglio. Si guarderà attorno incredulo, poi sentirà un trepestio di passi sopraggiungenti alle spalle. Vedrà la gente, risvegliatasi prima di lui, che corre affannosa e lo sorpassa per arrivare in anticipo. Sentirà il battito del tempo, scandire avidamente la vita. Non più alle finestre si affacceranno ridenti figure, ma volti immobili e indifferenti. E se lui domanderà quanta strada rimane, loro faranno sì ancora accenno all'orizzonte, ma senza alcuna bontà o letizia. Intanto i compagni si perderanno di vista. Qualcuno rimane indietro sfinito, un altro è fuggito innanzi e oramai non è più che un minuscolo punto all'orizzonte. Dietro quel fiume, dirà la gente, ancora 10 chilometri e sarai arrivato. Invece non è mai finita. Le giornate si fanno sempre più brevi, i compagni di viaggio più radi. Alle finestre stanno apatiche figure pallide che scuotono il capo. Fino a che Drogo rimarrà completamente solo. E all'orizzonte ecco la striscia di uno smisurato mare immobile, colore di piombo. Oramai sarà stanco. Le case lungo la via avranno quasi tutte le finestre chiuse e le rare persone visibili gli risponderanno con un gesto sconsolato. Il buono era indietro, molto indietro, e lui ci è passato davanti senza sapere. Oh, è troppo tardi ormai per ritornare. Dietro a lui si amplia il rombo della moltitudine che lo segue, sospinta dalla stessa illusione, ma ancora invisibile, sulla bianca strada deserta. Giovanni Drogo adesso dorme nell'interno della terza ridotta. Egli sogna e sorride. Per le ultime volte vengono a lui nella notte le dolci immagini di un mondo completamente felice. Guai se potesse vedere se stesso come sarà un giorno, là dove la strada finisce, fermo sulla riva del mare di piombo, sotto un cielo grigio e uniforme, e intorno né una casa, né un uomo, né un albero, neanche un filo d'erba, tutto così da immemorabile tempo.